prostata, per curarla bisogna trombare. Guarda, Cruciani ha una prostata meravigliosa che viene esibita ai congressi medici per dire come si deve tenere la prostata. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Siete pronti? Parenzo, ci sei? Siamo caldi? Allora, risentiamo intanto la frase di questi giorni, la frase cult di questi giorni. L'autore non è un giornalista, un politico, un parlamentare, un cazzone qualunque. L'autore di questa frase è il pontefice, il papa. Santo padre. Il santo padre, dai. Almeno per salvare la in forma. Questi no? giorni, almeno in questi giorni. Almeno nei primi 5 minuti per salvare la forma. Il pontefice, ho detto io. Il pontefice. Il vicario di Cristo in terra. Sì, sì, almeno per salvare la forma. Ognuno di noi dà i suoi giudizi poi sul papa, no? Io nel passato mi ero espresso anche in un certo modo. Che confermo. Teoricamente non sarebbe possibile. Perché beh, ormai, tu sai, ormai è tutto stoganato. Dai, tutto come stoganato. Sai, è l'unica persona che diciamo è infallibile. Sì. Tutto il resto, dopo Renzi. Allora, il pontefice, se non ci fosse in questo momento, bisognerebbe quasi inventarlo, no? Quasi inventarlo, perché ha la grande capacità di alimentare polemiche quotidiane. Che cioè, ha più followers di Renzi, no, lo sai. Ma quello è normale. Cioè, ma quello è abbastanza rosica, normale, dai. Rosica, Renzi, no, ma... non credo. Non gliene frega niente, deve avere più followers del Papa. Però dico una cosa, il Papa ha questa grande capacità di alimentare polemiche quasi quotidiane, cose che ma prima non alimenta polemiche, no, non ma è vero. È così, beh, come no? Ma non beh, è lui che le alimenta, scusa, non è che la zanzara è così, lui. Beh, ma diciamo, si può dire che il Papa è la zanzara, ma no? La ricostruzione tu delle... alimenti polemiche, ma sì, Marin alimenta polemiche. Sì, non il pontefice. Ma in questo caso il pontefice con l'abito bianco. No, candido. no, perché la ricostruzione di come è avvenuta la vicenda della risposta su Marino, beh, è abbastanza sì. chiaro, no? Il Papa voleva dire questa cosa qui, voleva dire e ha sollecitato la domanda, beh, mi sembra molto chiaro. Comunque, la frase calda è questa. Poi vi spiego perché ve la faccio risentire, Ve lo spiego perché noi abbiamo tra qualche minuto saremo in grado di dimostrarvelo. Aia. Abbiamo la spiegazione del Aia. Perché il Papa ha detto quelle frasi. Cioè abbiamo la spiegazione proprio provata, la prova provata del perché il Papa ha pronunciato queste frasi. Io non ho invitato il sindaco Marino. Chiaro, io non ho fatto e ho chiesto agli organizzatori, neppure loro lo hanno invitato. Lui è venuto, lui si professa cattolico, è venuto spontaneamente. Era questo, primo, ma è chiaro, Cosa più facile che è venuta fuori oggi, che cos'è? Che Marino si è imbucato ed effettivamente ancora restano sospese alcune cose. Si è imbucato o no? O è stato invitato ufficialmente dal sindaco di Filadelfia, eccetera, eccetera. E seconda cosa, chi ha pagato il viaggio suo e dei suoi collaboratori? Questa è la cosa più importante. Beh, insomma, il resto me ne frega niente. Beh, questa è l'unica cosa. Beh, fra poco ti renderai conto che non è proprio così. Questo non è proprio mi interessa così. Sapere. Chi ha pagato mi interessa. Se è stato invitato, se non è stato invitato, se si è rotto le palle di stare beh, a Roma con tutti sti casini e dice vado a Filadelfia, che c'è il Papa, quello me lo rende anche simpatico. Se però si venisse a scoprire che un penny, un euro, un sesterzo, un calderolo, chiamatelo come vi pare. Calderolo no, un sesterzo. Vabbè, allora, insomma, è stato sborsato dal Comune di Roma, beh, questo potrebbe essere. Beh, no, se è un viaggio istituzionale, no. No, istituzionale però, no, perché non l'ha invitato nessuno. Ti assicuro che più no, ti assicuro, no, lui dice di sì che è il sindaco di Filadelfia, eccetera. Vabbè, non gli organizzatori, però. Sindaco di Filadelfia, adesso. Giordano, Mario Giordano, Marino imbucato, vabbè, questo però è abbastanza scontato, ve lo dica, dai. Imbucato, imbucato, ha fatto l'imbucato, imbucato, l'imbucato alla messa del Papa. Questa è la Zanzara. Fra qualche minuto sentirete che cosa? Sentirete il vero motivo delle frasi del Papa sull'aereo di ritorno a Roma. Fermi lì, fermi lì. Becchiamoci intanto la taverna, la signora taverna. Cosa ha detto? Sempre su Marino, sempre su Marino. È un'amministrazione che non funziona, ma noi abbiamo dovuto attaccare i cartelloni wanted, cercasi sindaco per Roma, cioè sta più volte all'estero che qui. Vabbè, questa è la polemica scontata dei 5 Stelle. A proposito però di immigrazione, eccetera, eccetera, eccetera, scontri televisivi della serie Scontri televisivi. Fedriga, uno della Lega sempre invitato in televisione, contro a quinta colonna, certo. Non mi ricordo chi, con chi era stavolta, con qual era il duetto scelto per fare Fedriga ascolti. Io ho visto Fedriga e ho cambiato allora. Fedriga contro, Fedriga contro Abu Abid. Hanno preso un nero Non è un nero, intanto prendono sempre un nero islamico contro un leghista, è un classico, no? Ma per fare ascolti, sono dei geni, senti, senti. I 40 milioni che sono stati dati al giornale La Padania, che sono stati completamente fregati ed è stato un giornale andato in fallimento. Io allora, vorrei chiedere, cosa hai detto? Scusami, ripetilo. Ci vogliono, ripetilo. Quanti profughi ci vogliono a rubare 40 milioni di euro? Quanti profughi ci vogliono per rubare 40 milioni di euro? Poi anche informato, peraltro. Vabbè, dai, esageri adesso. Informato, informato. Cosa hai detto? 40 milioni di euro. Adesso, guarda, siamo, io ti rispondo. Perché siamo, vediamo, siamo tutti belli da andare a vedere le tasche dei poveretti. C'è un limite alle queste cose qua. Adesso ne risponderai. A politici che prendono 8.000 euro. A politici che prendono 8. A politici che prendono. No, il poveretto è lei. No, che prende, che prende adesso ti, io non rispondi delle tue affermazioni. Tu ne rispondi, ma non risponde Fedriga. Ne risponderai, dice Fedriga, con tutto quello che dicono Radio Madari, cioè, ne risponderai. Senti, risponde questa cosa, Librandi, Librandi rispondava a quel paese. Librandi che si immola sempre contro la Lega, no? In nome della, dell'emigrazione, che ci servono gli immigrati, il mitico Librandi, partito sempre sciolta civica, ricordatevelo, è sciolta civica, contro lo stesso Fedriga. Sentite, sentite. Non siete capaci neanche di gestire la radio perché sta chiudendo anche quello. Ma meno male che sei bravi, voi avete fatto la riforma Fornero, certo. Avete massacrato milioni di cittadini. Se fossi in te starei zitto, e chiederei scusa. Se fossi in te che hai fatto la riforma Fornero, starei zitto e chiederei scusa. Abbiamo fatto la riforma perché voi non avete fatto niente per 20 anni. Massacrati. Tra l'altro pare da notizie di oggi che Radio Padania potrebbe chiudere a breve, potrebbe mai chiudere a breve. Tardi. No, no, no, no, io sono contro la chiusura di Radio Padania. Sono anche contro i soldi pubblici, cioè i soldi pubblici alle radio, ai giornali, tutti, anche i soldi pubblici che indirettamente arrivano al Sole 24 Ore, ai giornali di partito, che non è il Sole 24 Ore, eccetera, eccetera, ma anche ai giornali per via in diretta. Sono contrario a qualsiasi finanziamento pubblico, qualsiasi. Renzi in inglese, sentiamo un po' che voto date a Renzi in inglese, vediamo se è migliorato nel tempo, su Berlusconi. Se non vota va bene lo stesso, vinceremo lo stesso. Ma a proposito di che? Riforma del Senato, la solita roba, dai, vai. I know that if Berlusconi vote this reform I'm happy, if Berlusconi decide don't vote this reform, for me nothing change. You will still win because we will win. So if there is a good majority, sì, I'm happy because this is constitution. Allora no, però vorrei risentire la parte iniziale, però insomma, a te, abbi pazienza, amico mio, un po', amico mio, però siccome è un'intervista, non so dove, Bloomberg credo, no? Bloomberg Televisi. Amico mio, ma è meglio farla col traduttore se devi spiegare così. Risentiamo la parte iniziale, su. I know that if Berlusconi vote this reform I'm happy, if Berlusconi decide don't vote this reform, for me nothing changes. Traffico, poi torniamo e vi spieghiamo perché Papa Francesco ha pronunciato quelle parole contro Marino, ma non è che ve lo spieghiamo noi. Beh, cioè, diciamo che c'è la prova provata di che cosa? Del sentimento che ha il Papa nei confronti del sindaco di Roma. Tu che fai quando vai a dormire? I sogni, traffico. Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. Vi presento La Zanzara. Allora, prima di ascoltare questa telefonata, questo nastro che come al solito ci è arrivato, Parenzo, questo nastro che ci è stato recapitato, beh, mi hanno detto che è la festa di compleanno di tuo figlio, o sbaglio? Oggi sì. E oggi, beh, facciamo un applauso al piccolo Nathan. Elinathan, va, due anni ha fatto oggi. Applauso. Grazie, grazie. Elinathan Parenzo, Inzevi. No, beh, il contrario, insomma. Beh, vabbè, dai. Mi sono inventato comunque, sta cosa. Due anni oggi, nel giorno in cui compie gli anni Berlusconi e nel giorno in cui... è vero, Bersani anche però. Esatto. Bersani. Esatto. Cioè, il figlio di Parenzo è nato lo stesso giorno di Berlusconi e di Bersani. Vabbè, comunque. Sarebbe troppo dire che è stato volontariamente concepito con questa volontà. Beh, troppo, sì, posso dar, però posso darti una notizia. Qual è la notizia? Che tu dimmi, sei sempre curiosito alla mia vita privata, alla mia vita sessuale. No, bellissimo. Ecco, questa te la posso dare, visto che ti rendo felice. Dimmi, felicissimo. Allora, è stato concepito il piccolo Nathan la notte di Capodanno. Beh, vabbè, questo siamo al top. Mi dovresti dare un'altra notizia, ma non me la vuoi dare. Vabbè, no, però fermi la tutti. La notte di Capodanno. No, no, ma... concepito. Ma no, perché la notte di Capodanno, sai che la gente. Vabbè, adesso, ubriaca, ragazzi, no? Però stiamo andando troppo per le lunghe. Qui ci è arrivato un nastro importante. Il presidente del Consiglio Renzi ha chiamato Monsignor Paglia. Non è vero? Sì. È così, il nastro così recita, così ho ascoltato. Monsignor Paglia, praticamente, è quello che Marino avrebbe parlato con Paglia prima di parlare, il presidente del Pontificio Istituto di non so che cosa. Un uomo molto importante, molto vicino a Papa Francesco, ed è l'uomo cui Marino avrebbe detto: guarda, insomma, io vengo, vado a Filadelfia, e Paglia avrebbe detto: sì, siamo contenti, eccetera, eccetera, se vieni a Filadelfia. Sentiamo Renzi che chiede spiegazione sul perché il Papa ha detto quella cosa sull'aereo. Pronto? Monsignor Paglia? Sì, sono io. Buonasera, Palazzo Chigi. Sì. Io la chiamo per conto del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Il Presidente del Consiglio avrebbe piacere di parlare con lei, quindi se vuole glielo passo. Come no, volentieri. Va bene, grazie. Resti in attesa. Pronto? Matteo. Buonasera, mi dispiace disturbare. Ma non diciamo frescacce. Dico sinceramente, non volevo scomodare il Santo Padre per questa cosa. No, guarda, sei bravissimo. E meno male, io vorrei capire come sono andate davvero le cose. Dunque, le cose secondo me sono andate che lui si è brigato per sfruttare questa situazione, e per questo fa imbestialire il numero uno. Capisco, quindi se lo dico in toscano, sei imbucato. E certo che sei imbucato. Cioè, poi io non so che cosa ci hanno detto lui e il sindaco Nattaro, un bravo uomo, una brava persona, però nessuno l'ha invitato cioè, ufficialmente da parte nostra, assolutamente. Io con lui parlai una volta, ma così, insomma, il Papa era furibondo. Posso immaginare. Io cerco di capire se vi fidate di Marino, se c'è fiducia in vista del Giubileo. E questo è il problema, secondo me. Lui, dunque, io ti posso assicurare una cosa. Lui, quando stava lì, ha insistito per vederlo e per rivederlo. E questo ha fatto scocciare tremendamente il Papa. Probabilmente Marino aveva qualcosa da farsi perdonare a Filadelfia. Poi sta cercando in ogni modo un appoggio, ma è questo, sai, con il nostro non funziona. E certo, io non so come fare, però. Senti una cosa, io quando torno in base, vuoi un minuto io, però indubbiamente è chiaro che questo mette un bel freno, diciamo, al rapporto, ecco. Certo. Se senti, diciamola, se Sanzo Padre dice che devo intervenire, io lo faccio, è naturale. No, lui non dirà mai questo, che deve intervenire, eh. Lui non lo dirà, ovviamente, perché figurati. Però certo ha fatto una figura da veramente da bischero, eh. Vabbè. Poi con la fascia, unico lì davanti. Si è bucato, insomma. Vabbè. Sì, si è bucato. Allora io quando torno, magari ci risentiamo, vediamo di capire meglio. Sì, io intanto cerco. Sì, va bene. Senti, miei complimenti per tutto. Grazie tante Vincenzo. Davvero complimenti, andate avanti, vai, tieni duro, e poi se ci vediamo un minuto ti dico anche qualcosa per te. Molto volentieri, molto volentieri. Va bene, Matteo. Va benissimo, ti saluto e ti ringrazio. Ciao. Ci sentiamo presto. A presto, okay? Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, cosa abbiamo capito, Parenzo, da questo nastro che ci è pervenuto qui? Cosa abbiamo capito? Allora, un signor Paglia, uomo molto vicino al Santo Padre, ha detto al signor Renzi che Marino abbia... Se ti vedo silenzioso, ti sento... Concentrato. Sei concentrato su che cosa? Perché, per capire. Perché non avevi ascoltato prima tu. No. Non avevi ascoltato. No. Ha brigato per. Sei imbucato. Nessuno ha parlato, l'ha invitato. Il Papa era furibondo. Tu te lo immagini il Papa furibondo? È questo non è vero, però dice Sino Paglia sarà. Al massimo diranno non è possibile. Cioè, non furibondo, no. Quando era lì ha insistito per vederlo. Capito? Quando era lì ha insistito per vederlo. E poi poco male. Sul Giubileo ha detto anche: beh, insomma, no, non è che ci fidiamo proprio tanto di questa situazione, no? Una figura da bischero. Era anche bella questa familiarità che c'era tra i due, beh, no? Beh, questo è normale, però, no? Beh, normale, insomma, adesso. Devo dire che anche Monsignor Paglia dice: vai avanti, Matteo, vai avanti! E la Chiesa con la schiena dritta, sempre la Chiesa. Beh, ma l'amicizia con la schiena dritta. Ma questo, devo dire la verità, sempre la schiena con la Chiesa dritta. Questo mi fa venire qualche dubbio sul fatto che le unioni civili. Vabbè ragazzi, 800 24 00 24. Stefano da Roma, vai. Pronto? Vai Stefano, dimmi. Allora, volevo chiamarti ieri sera, ti ho chiamato, ma erano tanti quelli che parlavano e non c'ero. Va bene. Vai, dimmi, vai veloce, non fare scendere la tensione, amico mio, non fare scendere la tensione. Era la stessa, no, il contenuto era la stessa di questa sera. Tu hai detto che Marino era andato lì per farsi i cazzi suoi. Beh, insomma, allora, i cazzi suoi è la mia interpretazione un po', come dire, crucianesca. Ma tu sei un giornalista? Beh, comunque avete sentito... Ma tu sei un giornalista? Sì. Ti domando, sei un giornalista? Ma il giornalista, allora, ma che sono queste definizioni? Hanno valore le agenzie? No, se hanno valore le agenzie. Sì. Se tu avessi letto le rassegne stampa, il giorno le rassegne stampa, sì. Marino ha annunciato il suo viaggio. Ma perché tu credi a tutto quello che ti dicono? Tu credi a tutto quello che ti propinano? Le agenzie di stampa riportano le dichiarazioni, giustamente. No, ma nemmeno la mafia. C'è una via di mezzo. Ma c'è una via di mezzo tra la mafia, tra i Casamonica e le agenzie di stampa. Le agenzie di stampa fanno il loro mestiere, che è quello di riportare. Di riportare le. Devo credere alle agenzie in ogni caso. Vabbè, insomma, perché è andato a Filadelfia? Perché è andato a Filadelfia, secondo te? Se tu mi fai parlare, se tu mi fai parlare, perché non mi vuoi far parlare. No, dimmi. No, ecco, nell'agenzia che è stata lanciata il 22 settembre. Sì, dimmi, dai, non Marino ha annunciato il viaggio, ha annunciato il motivo del viaggio e nessuno ne ha parlato. Che è quello di prendere. Di trovare soldi per Roma, il giusto? Il motivo del viaggio è sono. I soldi, quelli fermo che lì, ho capito, questa è la versione ufficiale del Campidoglio, noi non ci crediamo. A tra poco. Attento al DDT, sai. Benvenuti tutti convocati come tutti i giorni dalle 14 alle 15:30, con me c'è Carlo Centa, Pierluigi Pardo, ancora tu. Ancora tu, purtroppo l'unico. Cambiamo tutto, cambia il format, te l'hanno detto. Sì, facciamo programma più serio. Molto più serio. Dalle 14 alle 15:30 tutti i giorni, da lunedì al venerdì, tutti convocati, i principali avvenimenti dello sport dall'Italia e dal mondo. Forse stai esagerando, però. Po' meno? Po' meno. Però a me piaceva. Vabbè, allora proviamoci. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. La Zanzara. Non mettete in bocca a un cittadino cose che non ha detto, potreste pentirvene fra poco. Poi considerate che fra poco faremo chiudere il vostro programma, quindi anche questo tornerà a vostro svantaggio. Allora, prima di risentire il nastro che è arrivato qui in redazione, la solita cicogna ce l'ha portato, con la voce del Presidente del Consiglio Renzi che chiama Monsignor Paglia, che è un uomo molto importante vicino al Vaticano, nella gerarchia vaticana, e che rivela il vero motivo di quelle frasi di Papa Francesco sul sindaco Marino. Non l'ho invitato io, non l'abbiamo invitato noi. Queste le frasi che abbiamo ascoltato sull'aereo, le frasi ufficiali. Beh, c'è da affrontare, caro Parenzo, la questione Calderoli. Sì. Io credo che la questione Calderoli non è che interessa molte persone, no? Beh, quello che succede al Senato. Però il signor Calderoli ha presentato, come sai, attraverso un algoritmo, circa 70-80 milioni, adesso poco più di 80 milioni di emendamenti. Milioni, ecco. Milioni, ecco, milioni, non 80.000 che pure sono tanti, Sì, non milioni. 8.000 che pure sono tanti, non 800 che secondo me sono tanti pure quelli, ma 80 milioni. Ora è chiaro che è una presa per il culo, cioè non può pensare che sia una cosa seria il signor Calderoli. È bravissimo a fare delle burle e noi ci divertiamo con lui. Possono essere la maglietta che ha provocato casino nel mondo dell'Islam. Può sollevare un problema. Tra l'altro, curiosamente, lo stesso Calderoli è quello che aveva, da ministro della semplificazione, bruciato un sacco di leggi. Dunque, da semplificatore a complicatore. Perché prima semplifichi bruciando le leggi, adesso complichi la vita al Senato. Dai, su, Calderoli, dai, è tutta una contraddizione. E poi è evidente che se tu accusi questa riforma di essere la premessa del nazismo e del fascismo, poi presenti 80 milioni di emendamenti. Ma siccome è la premessa essere sbagliata, caro Calderoli, Grasso decide una cosa e tu te la prendi in quel posto. Ed è anche giusto che sia così. Non è che il Senato può come dire, discutere su 83 milioni di emendamenti. Ci vorrebbero infatti Grasso Dixit. Io dovrei sospendere di fare il presidente e per 17 anni stare a leggere 85 milioni, sospendere l'aula quantomeno, lascio l'aula ai vicepresidenti e vado, vedo che questa soluzione trova l'accoglimento. Quanti anni ha detto Grasso? 17 anni ci vorrebbe. Calderoli lo corregge. Presidente, lei dice che per esaminare con un minuto ciascuno i vari emendamenti impiegherebbe 17 anni. Io ho usato l'algoritmo, ho fatto i conti. Lei starebbe qui 161 anni se vi si dedicasse 24 ore al giorno. E quindi, sotto un certo aspetto, la sua risposta credo che sia compatibile con una posizione corretta. Però io voglio dire una cosa, no? Siccome è tutta una presa per il culo, va benissimo l'algoritmo, la visibilità, lo sberleffo delle istituzioni, cioè io non voglio questa riforma, vi prendo per il culo e con un algoritmo faccio 80 milioni di emendamenti, non c'è nulla di serio in questo. Ma però Calderoli dice la deriva autoritaria in passato si è sparato per la democrazia, amico mio, non siamo in questa situazione di deriva autoritaria di sparare, dai. È abnorme il numero di 85 milioni, può darsi. Io credo che ci sia una deriva autoritaria dietro. Qualunque cosa non diventa più abnorme, perché in passato qualcuno ha sparato per difendere la democrazia in questo paese. Era abnorme resistere e difendersi della democrazia? Dai, basta Calderoli. Ardito, diciamo. Basta cazzate, Calderoli, dai, su, sei un uomo intelligente, basta cazzate, basta minchiate, dai. Si può criticare la riforma del Senato in mille modi, ma basta cazzate. Basta cazzate, basta cazzate. Il caso Marino che è iniziato, adesso facciamo un po' di recap, come si dice, cioè di riassunto per chi ci sta ascoltando, le tante persone, il popolo della Zanzara, addetti ai lavori, Vaticano, Campidoglio, Renzi, Partito Democratico, che succede? Marino in aereo disse questa frase, sì, Marino e il Papa, no, contro no. Marino. Io non ho invitato il sindaco Marino. Chiaro?

Beh, amico mio, dice delle cose molto forti, conferma quello che dice il Papa. No, ma perché sminuisci queste cose? No, perché conferma, sminuisci queste cose? Dice delle cose pazzesche, dice delle cose pazzesche, è una stroncatura di Marino su tutti i fronti, dai, su. Cioè, il numero uno era imbufalito, ma non dire stupidaggini, dai. Sì, quello si capisce. Sergio da Milano, dai, dai. Vai, dimmi. Ciao. Niente, soltanto per difendere invece Marino, perché come rappresentante della città di Roma ha fatto bene, secondo me, ad andare, se invitato dal sindaco di Filadelfia, ad andare. No, amico mio, ma poi... forse non hai capito ancora. La cosa fondamentale è che in realtà, come hai sentito, immagino, da questa telefonata, cioè che sei imbucato, cioè voleva andare lì per presenzialismo, per incontrare il Papa, per farsi vedere. Ma è anche tutta la politica che è così, quindi diciamo. Ma sì, che ma per carità, ma non c'è. Marino che è andato lì per raccogliere dei fondi, farsi vedere che non doveva raccogliere andare. Dei fondi, questo è il racconto, diciamo, ufficiale, il raccogliere i fondi. Noi non crediamo mai ai racconti ufficiali, diciamo ai racconti quelli che ci fanno. Posso dire una cosa invece su Gabrielli, no? Che si è presentato contro Marino. C'entra Gabrielli. Marino per il funerale di Casa Monica. Gabrielli ancora. Che dice da prefetto di Roma, che dice: noi non sapevamo nulla, non siamo stati informati, ma come faceva il povero Marino a saperlo? E la cosa più incredibile, indovina che cosa, che Gabrielli dice davanti ai giornalisti, dice: ora organizzeremo il coordinamento delle forze armate. Ma come? Dopo 40 anni siamo ancora qua con il coordinamento delle forze armate. Va bene, Gianni da Roma, vai Gianni. Eccomi. Dimmi Gianni. Intanto ringrazio la redazione. Vai, veloce, dai, dimmi. Chiamato, veloce. Poi vorrei che mi soddisfasse la mia curiosità, sì, da ascoltatore. Quale? Il vostro livello culturale. Molto basso. Il tuo nessuno. È quello di parenti. Molto basso, meglio, molto basso, molto basso. In modo molto elementare. Che titolo di studio avete? Nulla, no, licenza elementare. Lui la elementare, io la media. Ecco, chi è che vi raccomanda la Confindustria per farvi testa? Ai massimi livelli, siamo raccomandatissimi. No, me, siamo raccomandatissimi. Sei parente di qualche portiere della Confindustria? Parenzo per fare il tuo tirapiedi, sì, è allo stesso livello. Ti dico qualcosa in più. Parenzo, Parenzo è parente dell'autista di Squinzi. Io ti dico la verità, però. Parenzo è parente, sì, dell'autista di Squinzi. Uno degli autisti di Squinzi, che ne ha parecchi. Io sono invece parente della moglie di Squinzi. Cioè, di secondo grado, Dunque, raccomandatissimi, blindatissimi. Che il Signore vi benedica tutti, vi spiri sempre il bene. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta La Zanzara. Tu dovresti essere menato, non denunciato per abuso di potere, perché con quel cazzo di microfono fai quello che vuoi tu. Ti sembrerà incredibile, Parenzo, ma oggi, questa mattina anzi, mi è venuto in mente di ascoltare Forum, di vedere Forum, anzi no, di ascoltare, di vedere Forum. Per carità, conduce Forum, la meravigliosa della Palombelli, certo. Conduce la meravigliosa, straordinaria, strepitosa, non lo dico ironicamente, Barbara Palombelli, praticamente in contemporanea, se non sbaglio, con la presenza del marito, signor Francesco Rutelli, in una trasmissione televisiva sulla 7. Erano in contemporanea, canale 5 e la 7, credo. Allora, cosa ho sentito durante Forum? Tu dici: sei pazzo, che ti senti a fare? No, io non so nemmeno se le storie di Forum sono storie inventate oppure no. Lo sai che non riesco a capirlo fino in fondo. Qualcuno mi dice di sì, non lo so, io credo di no. Però qualcuno mi dice sono tutte inventate. Se non sono inventate, vorrei conoscere questi signori. Uno si chiama Dennis, l'altra si chiama Martina. Sono praticamente marito e moglie. Comunque, ragazzi, marito e moglie. Il marito si chiama Denis, Martina è la moglie. E che bravi c'hanno, Denis. Beh, amico mio, adesso sono cazzi tuoi, Parenzo. Adesso sono veramente cazzi tuoi. Allora, tu dimmi te se è possibile che tu e quelli favorevoli alla multa ai clienti delle prostitute potete provocare tensioni, divorzi, separazioni, casini, eccetera, eccetera. La signora Martina ha chiesto la separazione dal marito, come No, beh, vediamo, perché, andiamo avanti. Perché contrattava con una prostituta. Vabbè. Cioè, gli è arrivata la multa a casa. Certo. Ma certo, un cazzo. Adesso sulle conseguenze. Un cazzo. Allora, lei è Denis? Sì. Benvenuto, Denis. Lei è Martina? Sì. Che è la moglie di Denis? Sì, per poco ancora. Vediamo perché. Allora, io, giudice, qui le porto una multa. Questa è una multa di 400 euro che è arrivata a casa 2 mesi fa, dove c'è scritto che il mio marito Denis a luna di notte stava contrattando con una signorina di strada. Capito? Capito? No, senti la storia come va avanti. Quello che c'è scritto lì in quella multa non è assolutamente vero, è solo un equivoco, va bene? Io quando sono stato fermato dai vigili, loro non ne hanno voluto sapere della mia spiegazione, hanno scritto che io stavo contrattando con questa signorina. Contrattare che cosa? Io mi ero solo fermato per chiedere un'informazione per andare nel mio ma albergo. Certo, hanno fatto male, ma come possono crederti? Vabbè, allora io dico, però adesso quelle sono problemi della coppia. Sì, però non avevo sentito bene. Il signor Denis, però, deve avere il coraggio, appetto lì fuori. È un errore, poverino. Che errore. È chiaro che su da questo punto di vista ha ragione la moglie. Petto in fuori davanti alla moglie. Sì, sono andato a puttane. Allora si separano. Sono andato a puttane. E se quella vuole separarsi, come si fa a separarla? Tutto nasce dall'arrivo della multa a casa, però. Tutto nasce da questo. Sentiamo ancora Martina e Denis. Sempre che la storia sia vera, voglio sperare, signora Palombelli, so che lei è sempre all'ascolto della Zanzara quando può. Ci confermi che la storia è tutta vera, eh? Ma sicuro. Ho spento il navigatore e sono andato distinto, ok? Ma come distinto? Questi istinti li devi andare a lasciare da un'altra parte. Te sei una bestia, sei un uomo che non vale più niente, capito? Perché se te mi tradisci con una poco di buono in quella maniera, te non te ne frega più nulla. Mi scusi, giudice, non gliene frega più niente, non mi rispetta più. Questo è veramente un problema di coppia, diciamo, no? Sì, a quel punto, non mi rispetta più. Però aspetta. Può essere una storia verosimile in realtà, cioè molto verosimile. Cioè, la voce di lei non ti convince. Mi convince, però la storia ancora. In sé mi convince. Potrebbe essere verosimile, quindi non c'è nulla di male. Prosegue la storia, prosegue. Lei pensi quando è arrivata questa multa che dice che era una signorina di quelle che lavorano per strada, nelle piazzole, quelle passeggiano, sì, ecco, quelle passeggiano, quindi pensi io come ci devo rimanere su questa cosa? Informazioni, soltanto questo. Sì, ha rallentato perché a luna di notte ha visto una signorina. Allora, io mi sono perso con questo appunto, con questo navigatore, l'ho spento, ho rimboccato, diciamo, la statale, e l'unica persona che c'era era questa ragazza sotto la fermata dell'autobus che stava spacciugando col cellulare. Non ho fatto in tempo a fermarmi, e da dietro sirene lampeggiante come se fosse successo chissà che cosa, e mi hanno proprio ammazzato. Allora, ragazzi, qui la cosa è molto chiara. Io sono molto deluso dall'atteggiamento di Denis, devo dire la verità. È molto deluso. Devi andare petto all'infuori, Denis. Petto all'infuori. Beh, evidentemente dire. Vuole stare con la moglie, però. Petto all'infuori e dire: è una vergogna. Vergognati, sindaco di quel paese, non so qual è, per questa ordinanza che distrugge le famiglie. Io sì, è vero. Vado a Mignotte. Lo confesso davanti a mia moglie, però amo mia moglie. D'altra parte, la signora Palombelli cosa dice? Che la famiglia italiana... Stai ad ascoltare la grande teoria palombelliana, eh? Si è fondata la famiglia italiana ed è ancora fondata su questo. È vero. Cioè, la moglie non si tocca, e poi ogni tanto ci può essere l'evasione, quella... Può succedere, cioè, altrimenti può succedere. Pubblico di forum. Martina, le dico solo una cosa, sarebbe meglio avere un amante per più anni o avere una scappatella momentanea, secondo lei? Niente ci deve essere se c'è l'amore. Tesoro mio, nessuno di noi può essere limpido fino in fondo. Beh, siamo al genio assoluto qua, siamo al genio assoluto. Bello, bello, bello, genio bello. Assoluto. Alberto da Milano, Andrea da Rieti, Massimo da Fermo, Francesco da Catanzaro, Luca da Modena. Partiamo da Luca, vai Luca. Giuseppe. Ciao Luca. Prego. Dimmi. No, praticamente sono intervenuto perché sono stato protagonista di un'azione molto apprezzata da tutte le persone che l'hanno commentata su Facebook e quindi sono orgoglioso di quello che ho fatto. Che hai fatto? Che hai fatto? Dimmi. Praticamente indignato del comportamento della banca nei miei confronti, non so se posso fare il nome, ma già tanto. Vai, fai tutto. È la San Paolo di Poggio Rusco, provincia di Mantova, a 16 km da casa mia. Che è successo? Ebbene, praticamente dopo che ho chiuso il rapporto con loro, ho avuto il desiderio di far controllare la correttezza degli interessi che mi hanno addebitato e se ne sono messe anomalie con la A maiuscola in misura di 24.000 euro. Cioè 24.000 euro è quello che ti avrebbe rubato la banca, giusto? Sì. Che ti avrebbe sottratto, rubato, tu come dici? Sì, carpito illegalmente, ecco. Carpito illegalmente, vabbè. E allora qual è stata la tua reazione? Ah, praticamente sì, c'è stata una fase prima di questo discorso qui di ieri mattina. Nei fatti abbiamo transato per 17.000 euro che ho riscosso circa a metà luglio. Non pago di questo. Ho detto, ma perché solo le banche cambiano le carte in tavola? Io anche se ho firmato che l'ho accettato, adesso voglio anche la differenza. Cioè, ma ho capito, tu stai dicendo che ti mancano ancora 7.000 euro? Sì, perché 24.000 meno 17.000 fa 7.000. Se avete fatto un accordo, quello accordo. Avete fatto un accordo o no? Non ho capito. Sì, l'abbiamo fatto, però le banche di solito le cambiano pro domo sua unilateralmente. Vabbè, amico mio, potevi anche non accettare. Comunque, che hai fatto alla fine? Mi sembra di aver capito, se leggo da qualche parte adesso velocemente, che hai tirato merda contro la banca, hai sparso letame. Che... Sì, con le mani, sì, mi sono procurato un secchio di letame, sì. Per, proprio come assaggino, perché questo può essere il primo passo di una serie di puntate che prevedono altre azioni eclatanti ed è bene che si sappia. Ah, tu hai sparso letame davanti a una banca San Paolo, per protesta, perché ti devono 7.000 euro, giusto? Sì, e più che altro per fare risaltare la cosa in modo tale che io avessi il protesto per parlare del marcio che tutte le banche applicano a tutti i conti, perché io ho visto come esperienza personale che quando una banca reclama da un correntista 5.000 euro è perché prima gliene ha inculati dai 25 ai 30.000. Va bene Luca, grazie per averci raccontato questa cosa. Massimo da Fermo. Però amico mio Luca, se tu hai fatto un accordo con la banca, però poi non è che poi tira merda contro la vetrina della banca, cioè, spargi le letame. Se eri incazzato l'accordo non lo facevi. Per carità, poi 7.000 euro sono importanti, se pensi che ti hanno fottuto è giusto anche protestare. Alberto, non è che uno firma un accordo, si fa dare i soldi, esatto, e poi dopo si arrabbia. Massimo, poi, Milano, vai. Nel merito, vabbè, un po' di letame. Vai. Dimmi. Pronto? Dai, dimmi, Massimo, dimmi. Buonasera, è meraviglioso essere entrato quasi per primo, perché io ieri sono mancato per pochi minuti, ma mi hanno chiamato che erano quasi... vabbè, succede, succede, vai. C'ho avuto un crollo nervoso, mi sono appennicato proprio mentre mi facevi l'appello, me ne scuso ancora. Mentre facevo quindi... l'appello, lì non c'è nessun appello, caro Massimo. Che appello? Vabbè, chiamato, l'appello degli ascoltatori. No, l'appello, quello l'appello. Fa a scuola l'appello. il tema, come sai, è il vaginismo. No, il tema io non so niente. Che cos'è il vaginismo? Il vaginismo. Ma che vuol dire il vaginismo? Dimmi. Ma quale tema? Non te lo specifico perché una delle centraliniste, due di cui non ricordo. No, ma scusi, lei chi voleva chiamare? Forse la parola quattro volte. Sì, no, forse ha sbagliato radio lei. No, non ha sbagliato radio. Cosa voleva chiamare lei? Alla quarta volta io ho detto: senta signorina, è una cosa che lei ce l'ha tra le gambe, è nascosta, si chiama vagina, ce l'ha presente. Per questo hai detto alla signora della reception, alla ragazza della reception, lei ha una cosa in mezzo alle gambe che si chiama vagina? Sì. Ma no, vergognati, dai. Ma le ragazze lì non è che sono là a prendere i vostri... Non mi capiva, mi ha fatto ripetere la parola vaginismo quattro volte. E come ha reagito di fronte a questa sua aggressione sessista? È stato molto professionale, molto. Ha detto, io ho capito. Ah, capito così. Ma chi voleva chiamare lei, scusi? Questa è Radio 24, la Zanzara, non è una trasmissione. Voleva chiamare la Zanzara. Chi voleva chiamare, scusi? No, la Zanzara per parlare di vaginismo. Chi voleva chiamare? Forse è sbagliato. Pronto? No, chi ha sbagliato? È una radio che è da sfondo economico, diciamo, questa. Ho capito. Ma quale sfondo economico? Ma sfondo economico sarà il tuo? No, io non sono. Ma sì, è una radio che comunque parla dell'attualità politica. Non c'è niente di più attuale, è una malattia. Bravo, scusi. No, ho capito, però non è una radio che sta crescendo a livello esponenziale. Che cos'è il vaginismo? Che cos'è il vaginismo? Il vaginismo è una malattia psicosomatica per la medicina ufficiale. Lei è un medico? È un primario? No, è un medico? Un ricercatore. un ricercatore. Un ricercatore, perché non ci credi, Parenzo? Ho capito. Sia di sesso che di sessuologia. Appunto, un ricercatore, nel senso che... Ci siamo capiti, sì. Ci siamo capiti, sono un ricercatore di fisica quantistica, allo stesso livello proprio. Che cos'è il vaccinismo? Il vaccinismo dice la medicina ufficiale, è una malattia psicosomatica, cioè di origine psicogena, ma che colpisce come organo bestaglio la vagina. D'accordo, viene, però qui non è una... praticamente messa fuori uso da un crampo, sì, da un crampo ostinato e di durata lunghissima. Sì, ma però che credo rende, che abbia... rende la vita sessuale quasi impossibile. Però Massimo, normale. Massimo, io sono molto solidale con lei e sono anche molto vicino ai suoi studi, alle sue esperienze e tutto. Però io credo che da questo punto di vista abbia ragione anche Parenzo. Cioè qui lei si è un po' sbagliato con le trasmissioni del professor Onder, forse, per esempio, oppure con una trasmissione che non c'è più, che si occupava di medicina prima su Radio 24. Cioè lei voleva chiamare per parlare di un problema che riguarda la vagina, giusto? Sì, sì, sì. No, beh, sì, credo che abbia sbagliato. Questa qui è una trasmissione che in genere si occupa dell'attualità politica, perché Massimo, del ponte sullo stretto di Messina, di Obama, dell'ISIS, di Marino. Massimo, insomma, allora non ho capito. Io sono disposto di Bugabe a parlare di qualsiasi cosa, ma mi sembra che non vorrei allungare il brodo. No, ma ho capito, perché ti interessa così tanto il vaginismo? Perché io ho una teoria specularmente opposta alla medicina ufficiale. Ah, vabbè, cioè, però la donna, sì, la donna? La donna sofferente tra virgolette di vaginismo, sì, in realtà è una donna che è dotata di vaginismo, cioè è super dotata, direi, dal punto di vista sessuale. Beh, diciamo che è una teoria molto interessante. Io la approfondirei più tardi, perché adesso abbiamo una certa fretta, caro Massimo. Comunque, la teoria è quella del vaginismo. Noi la richiamiamo, è in corso d'opera. Sono le 19:48, abbiamo tanto tempo per occuparci di vaginismo. Siamo ad alti livelli qua, La Zanzara. Sei un terrorista radiofonico, è una verità. Leggo sul sito online, caro Parenzi, polemica su Marino, il Vaticano frena. In realtà Monsignor Paglia la Zanzara, Papa furibondo. Più tardi faremo riascoltare tutto, Luciano da Perugia, 800 24 00 24. Però abbiamo con noi Oliviero Toscani. Buonasera, ecco. Buonasera. Ecco. Ciao. Qui, amico mio, l'abbiamo combinata grossa, amico mio. Abbiamo colpito ancora, amico mio, Beh, abbiamo ricevuto un nastro, il solito nastro che viene dall'alto dei cieli, questa volta si può dire davvero così, di un signore che si chiama Renzi, che chiama Monsignor Paglia, ha accompagnato il Papa a Filadelfia, eccetera, il quale ha detto, Marino si è sostanzialmente imbucato, Marino, il Papa era furibondo, insomma, abbiamo problemi anche a gestire il giubileo, eccetera. Beh, è un casino, ma tu vai a Roma ogni tanto oppure te ne fotti di quello che succede? Cioè, il signor Marino ti interessa come argomento o no, Oliviero? Sai, Marino è divertente. Oggi c'è l'articolo di Merlo su Repubblica, fantastico. Maestro Merlo. Beh, certo. Che è tuo amico, anche bisogna dirlo. È amico per quello, amici si fanno lavorare. Che cos'è? Lei lo stalker, ha detto, lo stalkeraggio di Marino. Che effettivamente, sentendo la telefonata. È una bella immagine, sì. Sentendo la telefonata di Paglia prima, la voce di Paglia, cioè, effettivamente è così. Cioè, una specie di stalker, no? Sì, ma è logico. Marino vuole fare carriera, dai. Beh, vuole fare carriera, adesso mi sa che la carriera è finita. Lui dovrebbe fare il medico, no? Dovrebbe fare il medico, solo che vuole fare il sindaco. E allora, o accettiamo il fatto che lui vuole fare il sindaco senza saperlo fare. Sì. Quindi devo dire che Roma è una città molto generosa che insegna alla gente a fare il sindaco, o fa fare i sindaci che fanno le cazzate come quelli che c'erano prima, o non è male, Roma insegna. Vuole insegnare. Si va a Roma per imparare a diventare sindaci. Quindi una palestra, sì, cioè una specie palestra. Di palestra, dici, più o meno. Ma a Roma non si può permettere una cosa del genere, dai, su, cioè non è che si può permettere. Roma che... è una città molto generosa, dai. È anche vero che Roma, secondo me, è ingovernabile, diciamo la verità. Cioè, adesso per Marino ne combina di tutti i colori, è assente. Perché invece Napoli è governabile? Perché Napoli, secondo te, no, Napoli. No, ma tu vivresti a Napoli? Vivresti a Napoli, diciamo la verità. Beh, no. Meglio Napoli che Ginevra. No, perché è molto più viva, dice, perché sì, è più viva, c'ha ragione. Ma è logico, molto è più viva, Napoli, più viva. Ginevra, che palle, tutti con gli orologi d'oro. tutti in orario, due balle, è vero, forse con le banche. Ragione. Ma che disastro, il prossimo Cristo non nascerà a Ginevra, nascerà a Napoli, capito? Perché? No, è logico. Ma che gli piace la vita, il prossimo Cristo, che vuol dire prossimo Cristo? Quello, no? Che aspetta, quello che aspetta Parenzo, nascerà a Napoli. No, io non lo aspetto veramente, però è già venuto per Parenzo, qualcuno. Non deve venire il vostro Messia ancora? Sì, però non è, sì, comunque si entrava in una discussione teologica, però è vero, sì, il Messia non nascerà. Ma perché voi aspettate il Messia? Ma come non sa, ma Cruciani non sa niente. Ah, è vero, sì, è vero, aspettate il Messia, sì, adesso. È vero. No, ma mi stavo confondendo tra Islam, cattolicesimo, eccetera, ebraismo, sì, beh. Beh, anche l'Islam da un certo punto di vista aspetta. Cioè, aspettate il Messia. Nel no, però Oliviero, dai, ti rendi conto. Nel marketing delle religioni, ognuno ha il suo prodotto. Ecco, appunto, diciamo la verità, io ho sostenuto nei giorni scorsi, dopo quella vergogna della Mecca con i morti, eccetera, che la religione è il disastro assoluto che condanna, diciamo, gli uomini. C'era qualcuno che prima di te l'aveva già detto. Senti, Oliviero. La religione. Ma sì, ma Toscani è un laicista, che c'è. Lo dico da sempre. No, la televisione adesso non c'entra. Ho avuto una querela dai papi per il vostro programma sulla religione. Sì, pure i papi. Ma ti rendi conto che i papi, con tutte le nefandezze che ha compiuto la Chiesa Cattolica, che non basterà a Papa Francesco, se è sincero, a emendare, a curare la Chiesa da tutte le porcherie che ha fatto, cioè la Chiesa Cattolica querela Oliviero Toscani. Cioè, ma vi rendete conto o no? Perché della follia? Ho detto che ha fatto le nefandezze che stai dicendo tu, mica io. Ma è una cosa pazzesca, è una roba pazzesca. Chi è che mi chiama? Io voglio capire chi è che mi chiama. Lo sanno che sto in trasmissione? No, è Francesco che chiama sempre tutti, attenzione. No, ma no, Francesco ormai oggi Francesco, non credo che mi chiami, signor Francesco. È centralinista del Vaticano, lui. No, ma 335, lo sapete, sono in trasmissione alle 19.53. Ma no, ma adesso non posso rispondere, sono impegnato in una conversazione con Oliviero Toscani. Scusa, è più importante Oliviero Toscani di uno che mi chiama alle 19.54. No, ma dai, magari è Francesco, papà. No, non credo. Però io voglio sapere, tanto adesso c'è l'intervallo. Ma qui c'è un altro che mi chiama. Sì. Dimmi, metti in linea questo qua, aspetta, Oliviero. Parenzo, chi è? Parenzo? Chi ti sta chiamando? David? Oh. Paolo, ti richiamo dopo. Che sono Paolo, chi è Paolo? Chi è Paolo? No, è un amico del. No, è un amico di Squinzi, capo redattore dell'Aria che tu. Paolo, sei dell'Aria che tira. Ma chi se ne frega dell'Aria che tira? Beh, ma Salvini fondamentale. È buono, no? Eh? Salvini è in volo, no? Ah, verso la cosa dici. No. Verso la... Però al aspetta, adesso parliamo di Salvini della Nigeria. Forse però anche Brianza. Tu ti rendi conto che. Paese civile. Io non so però, cosa riuscirà a fare Papa Francesco. Ha dimostrato di essere un paese civile. Aspetta, che riprendiamo questo discorso. Però anche quello che riuscirà a fare Papa Francesco non è che salva la Chiesa da tutte le porcherie che ha fatto. Diciamolo, Oliviero. No, questa. È vero. Dice delle banalità che mio nonno le diceva 70 anni fa. Papa Francesco, giusto? Sì. Solo, dice delle banalità, solo siccome lo dice il Papa, allora tutti. Ma non ti fa scaldare nemmeno quando parla di immigrazione, accoglienza? Sì, no, ma cosa banale, ma normalissima, giustissima. Cioè, normale, dice. Ma siamo lì ancora a discutere questa roba qua, solamente i leghisti. Sono ormai non hanno ancora capito. Ma sei d'accordo con me che la religione è la disastro di tutto dell'umanità o no? Che le religioni hanno. In nome di Dio non si sono mai fatti così tanti morti. Ma non è vero, ma dipende. Ha ragione Oliviero, su questo devo dire, ma spesso dipende, ci troviamo in disaccordo, su questo ha ragione lui in pieno. Si è sempre ucciso in nome di Dio. Torniamo. Dio con noi, i nazisti l'avevano scritto sulla cintura, Gott mit uns, Dio con noi, e ammazzavano. Caro mio, chi ha fatto fuori? Parenzo, chi ha fatto fuori gli ebrei? Cattolici? No, ma qualunque uno può usare qualunque domanda scusa per Parenzo, uccidere, no? Ma lui no, sa. Ma lui. Ma hai ragione, però io non sono contro le religioni, ma ognuno può usare pure qualunque... il nome della religione ebraica. Io sono sempre dalla parte degli ebrei, per carità. Sempre. No, comunque, ma voglio dire. Si fanno pure là delle cosine, eh? Si fanno delle cosine. Ma non è per la religione, sono anche, la follia degli anche, uomini anche, che è la anche. Follia degli uomini che però usa. Se non ci fosse la religione sarebbe meglio. Fermi tutti, fermi che c'è la pubblicità, poi torniamo. 800240024. È una cosa indegna la sua trasmissione. La Zanzara. Qui non si sta per sopravvivere. Non si sta per sopravvivere galleggiando. Ma si deve sempre osare. Se si deve morire, si deve morire combattendo. Citazioni a caso, così. Chi è? Churchill? No. No, Mussolini, no. Varie citazioni. Mi sembra più Mussolini. No. Non c'è niente di, non c'è niente di fascismo, nulla. Lezioni così di vita, di lavoro, tutto. È con noi in una serata in cui abbiamo capito perché il Papa ha detto quelle cose sul sindaco Marino, abbiamo capito perché il Papa sull'aereo di ritorno a Roma ha detto che Marino è sostanzialmente uno che, anzi, ha detto che non è stato invitato dal Vaticano, e che, cosa perfida che nessuno ha notato, è quella roba sul cattolico, no? Com'è che ha detto? Si dice cattolico, si professa, se professa cattolico. No, non lo faccio. Non ha le sì, però se professa cattolico è tremendo, no? Anche un ateaccio come me, come Oliviero Toscani, il Papa che dice di Marino se professa cattolico, lì c'è tutta la perfidia del potere, no Oliviero? La perfidia. La perfidia, dai, assoluta del potere. Ma tu nemmeno in questo caso riesci ad andare, sei d'accordo con la Chiesa, nemmeno in questo caso riesci a dire che il Papa ha fatto bene a sputtanare Marino in questo modo. Ma sai, ma cosa gli serve alla fine? Ma non so, un po' una cattiveria, un po' gratuita, dai. Una cattiveria, tu dici? Un una po', cattiveria. Sì, è vero, io sono d'accordo con te. Papo. Sono d'accordo con te. Un po' più tolleranti, poi dovrebbero ringraziarlo. Ma non ha detto bugie anche, stavolta. Anche se magari non è così credente, però mi vuol bene, è innamorata di me, insomma. Cioè il Papa ha una parola, il Papa ha una parola sempre buona con tutti, no? Dovrebbe. Invece dai, si mette lì a fare la discussione con Marino. Un po' il carognito. È vero, ha ragione, da questo punto di vista ha ragione Oliviero. Stasera e cosa ci ha guadagnato a dire che non l'ha invitato? Madonna, mi essere invitato. No, ha risposto a una domanda, dai. Sì, però ma dico, non è che deve essere invitato da lui per andare là. Uno può andare là perché è un fanatico, però, come tutti quelli che sono andati. Sì, però lui, si è sentito, come dire, in qualche modo toccato dal fatto che il Papa, che Marino è andato lì addirittura a fare delle lezioni sulla sicurezza in Vaticano, sulla sicurezza a Roma, la sicurezza per il Vaticano. Ha ragione, dai, ma perché no? E poi accreditandosi come invitato dalla Chiesa. Un po' utile, voleva essere finalmente un po' utile. No, ma io infatti devo dire la verità, per me sono cose che uno può evitare. L'unica cosa che Marino è riuscito a fare da tanto tempo è andare là dove c'era il Papa. Tutto il resto non è riuscito a fare niente, dai. Mamma mia, però devo dire la verità, il Papa è incattivito, imbufalito, che descrive Monsignor Paglia nella telefonata che fa. Un po' c'era un po' stanco, sai. Sì, ma d'altra parte il Papa non si può permettere di essere imbufalito, questo ti dico anche. Cioè, da un certo punto di vista il Papa è incazzato, come lo descrive Paglia, cioè il Papa arrabbiato, imbufalito, eccetera. Ma è una cosa, un controsenso quasi, cioè il Papa dovrebbe essere lì in qualche modo a mettere tutti tranquilli. A dire ma grazie Marino che sei venuto senza essere invitato, fossero tutti come te. Magari gli ha detto così, però. Ma esatto, invece esce fuori un Papa incazzato con Marino, che fa polemica eccetera, che dai su, non è... Invece di incazzarsi con Castro, bravo, di faccia, guarda, tu sei stato un dittatore, un assassino, un tremendo, tu e il tuo Che Guevara che avete discriminato gli omosessuali, avete fatto tutto sbagliato, avete ammazzato la gente, messo in galera. No, perché non gliel'ha detto? Se la piglia con Marino, se la piglia con Marino. Se la piglia col povero Marino. Faccio una rivoluzione copernicana. Ha ragione Toscani. Invece di andare. Non ha ragione. No, ma te la do. Purtroppo ragione. Te la do invece in questo caso. Ha perso l'occasione di non aver detto a Fidel Castro con le robe, anche se ormai non capisce più un cazzo quel vecchio ricoglionito. Poteva dirgli le cose vere, no? Che la Chiesa dovrebbe dire. Perché magari gliele ha dette, ma non l'abbiamo, ma abbiamo visto altro, dai, scusa. Avrebbe questo... dovuto dire che tutti avrebbero dovuto sentire. No, ma... ha fatto sentire a tutti. Beh, che ha parlato delle del fatto che i cattolici non potevano avere spazi. Ha utilizzato. Cioè, parla del suo, non è che puoi chiedere al Papa di occuparsi dei diritti degli altri. No, ma io posso essere anche nel merito d'accordo con te, ovviamente, sulla questione delle discriminazioni a Cuba. Le solite metafore, dai, il Papa con Fidel Castro. Sì, però non può diventare. Però scusami, il Papa non è che puoi chiedere che improvvisamente diventi il baluardo dei diritti dei gay. No, però è lì a far cosa. Ma perché? Che è un po' paradosso, no? Sarebbe chiedere. Certo, come... dovrebbe andare al Gay Pride, in testa al Gay Pride. A chi lo chiedi se no? Il Papa, però, fa il Papa. Adesso, non potete insegnare al Papa come fare il suo mestiere. Il Papa non ti insegna come si fanno le foto, tu non è che puoi dirgli come deve fare il Papa. Il Papa, no, scusa, ha ragione Oliviero. Il Papa se la prende con quello, se la prende con quello più debole, con quello più debole, il signor Marino, che ormai è sputtanato da tutti, e invece di prendersela col capo di Stato e con la figura dei cast. basto, invece di dire pubblicamente quei capi di sei stato un assassino, sei un assassino, sì. Sei sull'immigrazione ha detto cose molto antipopolari, dai, come dai, si su. Vede no, ha detto delle banalità, cose normalissime, dai Parenzo, ha detto le cose normalissime, ma mica tanto normali, tant'è che tutti lo attaccano per quelle cose che ha detto. Noi sappiamo che saranno così. Ma noi lo sappiamo, sì, ma ha detto cose che sono. Solo Salvini, certo, però purtroppo fanno breccia le robe di Salvini. A proposito, Salvini e tutti quelli che fanno rima con Salvini. Aspetta, che adesso andiamo su Salvini. Aspetta, che andiamo su Salvini. Now on the day I was born. The nurses all gathered round and they gazed in wide wonder. Allora Oliviero, a Salvini è stato negato il visto d'ingresso in Nigeria per andare in Nigeria. Devo dire che è abbastanza strano oggi ragionandoci, Parenzo, mi è venuta in mente questa cosa qui. Ma ti pare possibile che uno prepara il viaggio, dice all'ultimo secondo eccetera eccetera, e poi questi negano il visto? Ci deve essere qualcosa sotto. Cioè, e per non vorrei che fosse tutto un po' costruito, cioè un po' costruito, no? Come perché no, ti pare strano, uno coinvolge imprenditori eccetera eccetera, prima di coinvolgere imprenditori assicurati che questi qua te fanno entrare, è il minimo, no? Oliviero, comunque che impressione ti ha fatto questa cosa? Devo dire che a Salvini io gli darei solamente il passaporto padano. E col passaporto, cioè gli toglieresti padano, quello italiano? Sì, dici, non dovrebbe essere. È lui che non lo vuole quello italiano. Non era così, leghisti? Sì, una volta sì, è vero. Passaporto una volta. Padano. Una volta, devo dire la verità, padano. Sarebbero stati in Catalogna l'altro giorno con la bandiera, eccetera. Adesso invece non è più di moda, diciamo, l'indipendenza della Catalogna. Ma infatti loro vanno con le mode, ma dai. Loro devono avere il passaporto padano, poi vediamo in che paesi riescono a entrare con quel passaporto. Cioè tu dici togliere a Salvini bisognerebbe togliere il passaporto italiano. A tutti i leghisti. No, a tutti i leghisti, adesso come fai i leghisti? Ma no, perché certo. Loro dovrebbero parlare fuori dall'Italia come parlano. Io mi vergogno che uno che è italiano parli in quel modo lì in Italia. Quindi lo parli in Padania, cioè non so bene dove sia dov'è la Padania. No, non esiste. Sono i confini della Padania. Non esiste, proprio non esiste. Ma non è mai esistita la Padania, punto, bisogna dire. Non è mai allora vada in facciano un passaporto padano, vadano fuori dall'euro, fanno tutto quello che devono fare e poi vediamo dove vanno. Ma ha fatto bene la Nigeria o no? Ma sai che frega. Beh, sicuramente non è abbastanza nero e non ha la faccia abbastanza intelligente per entrare in Nigeria. Cioè tu dici che hanno, che vabbè, i nigeriani non è che sono quelli. Sono razzisti anche loro, come loro. Sì, gli hanno applicato la legge del contrappasso, giusto? Appunto, detto, tu non vuoi i nostri, allora, non vieni neanche tu. Tu non vieni qua. E non vieni qui a far casino, a rompere i coglioni. L'ha fatto benissimo. Niente seria. Io non li conoscevo come persone. Vabbè, no, ragazzi, ha sbagliato. Senti, negare i visti neanche, è sempre sbagliato. Neanche in Nigeria lo voglio. No, infatti, appunto. Ma come mai? Come mai secondo te? Te l'ho detto. Ma solo per quello, cioè ci sarà un altro motivo. Ma perché è persona non gradita, ha fatto il test dell'IQ. Intelligenza. Non è abbastanza per poter entrare in Nigeria. Ma no, ma allora, Salvini non puzza. Non puzza. Ma questo non lo so, io l'ho visto solamente in televisione. Beh, come non lo sai? Il radio non puzza nessuno. No, tu dici che puzza, non ho capito, Salvini. Non ho detto che puzza, no? Chi l'ha detto? No, grugnisce ma non puzza. Dai. Grugnisce ma non puzza. Non puzza, sì. È una persona come normale. Non lo so, io non sono mai stato vicino a Salvini, per fortuna. Perché? Perché non ci metteresti mai accanto a Salvini? Ma insomma, dai, non è che sia la persona in cui vorrei passare. Comunque grugnisce, quando viene da voi grugnisce. Ma ti fa schifo un po' Salvini o no? Fisicamente? No, poverino. Sai, Salvini, sì, secondo me, passerà. È uno che non aveva tanto da fare, no? Sì. Come tutti tanti che entrano pure. Poi a un certo momento si è ritrovato famoso e andrà sul libro del Guinness dei primati per aver avuto la più grande fama con la più piccolo cervello politico. Cioè tu dici la grande fama con un piccolo cervello. Sì, il rapporto a sua capacità politica, sì, la sua visione politica, lui ha avuto la più grossa fama. Quindi lui passerà nel libro del Guinness dei primati. Comunque sta per chiudere Radio Padania, eh? Dicono, leggo che sta per E come facciamo poi a ridere? Scusa. No, dai, su, ragazzi. No, Radio però... Padania è meglio di Crozza, ma scherzi. Cioè, tu dici che è meglio Radio Padania? Beh, di... Viva Radio Padania! Allora, viva di grande. Viva Radio Padania! Viva Radio Padania! Ma senza Radio Padania? È vero, è vero. Infatti, io la difendo non solo perché è giusto. Ma ci vuole Salvini, ci vuole Radio Padania per capire dove bisogna stare. Allora, cioè, per capire dov'è l'umanità, sì. Dici? Dov'è l'umanità? Ma non è l'umanità, dove non c'è l'umanità. Non so se è umanità o no. Io comunque col loro metro capisco dove bisogna quello. Scusa, bisogna ma io fare, che ho votato fare. Diverse volte la Lega, che sono un coglione, scusami Olivero. Beh, abbastanza, ogni tanto succede a tutti di esserlo. No, dai Olivero, dai, ma tu stai insultando quelli che votano la Lega, sono coglioni. Ma non stai insultando nessuno. Sì, tu stai dicendo che quelli che votano la Lega sono dei coglioni. No, l'hai detto tu. No, ma tu lo pensi però. Tu lo pensi che quelli che votano la Lega che sono secondo te? Minus Abens, coglioni, imbecilli. No, ma poverini, sono un po' indietro, no? Appunto, sono incapaci, sono deficienti. No, non hanno ancora capito. No, ma non hanno. Ah sì, tu pensi che sono coglioni, ma non hai il coraggio di dirlo, dai. No, questo lo dici tu. Insomma, l'uomo ha delle evoluzioni. Appunto, no? E loro non sono ancora evoluti, insomma, hanno peggio, bisogno di un momento di sviluppo. Insomma, peggio ancora, gente che ha paura. Siamo qui per aiutarli, siamo degli amici. Dai. Tutti gli elettori della Lega sono sottosviluppati, disse Toscani. Che tra l'altro andrà a processo sulla questione della cosa, sulla questione del Veneto. Diciamo, ancora. Beh, non l'hanno ritirata, Zaia, non l'ha ritirata quella cosa. Tu non sai quanti veneti mi danno ragione adesso, questo qua. Ce n'è quattro che non vanno d'accordo, non vanno bene. E allora vabbè, si va a processo. Perché in Italia, devo dire la verità, intasano i tribunali perché quattro si sono cazzati con le frasi di Toscani e l'hanno portata in tribunale. Allora, tutti i veneti, ma figo, i veneti sono gente intelligente, simpatica, ha reagito bene. Farò un libro io su questi veneti qua e gli altri. Vi ricordate Veneti Ubriaconi? Sì, Veneti Ubriaconi di Toscani. Adesso sto riassumendo naturalmente. Etilici. Quattro persone hanno fatto denuncia. Hanno denunciato Toscani. Non c'è perché non ti sei messo d'accordo? Quanto volevano questi qua? Ma no, era giudice di pace, ma vedi sta lì. D'accordo di che cosa? Scusa, con quei quattro lì, ma chi sono? Che sono? Imbecilli, chi sono? Non esiste. Non parlavo con loro, non parlavo con i veneti personalmente così. Con quattro persone. Che il loro accento ha una cadenza etica. No, vabbè, lascia perdere il merito. Allora, questi volevano una conciliazione, volevano che tu chiedessi scusa. Non devi chiedere scusa a nessuno. Scusa, l'ho scritto le lettere a Zaia, persino a Zaia. Ma quanti soldi volevano? Non c'è una richiesta di denaro, è penale. È penale perché? Cioè andrai al processo, noi seguiremo questo processo. Voglio andare al processo. Noi seguiremo questo processo. E poi succederà, ci sarà una sentenza che dirà che sono etilicamente, atavicamente ubriachi con sentenza. Passata in giudicato. Con sentenza. Sai quello che ha fatto il processo la moglie perché era corrotto? Sì. Il giudice gli ha dato ragione, ha detto lei ha ragione, lei è cornuto con sentenza. Succederà così anche a loro, cosa che ti dico? Vuoi che una sentenza stabilisca? No, non a loro, ai quattro veneti lì, che fra l'altro magari sono anche astemi, per quello che sono. Ma chi sono questi qua? Vabbè, sono quattro cittadini normali, tra cui una signora con cui abbiamo parlato, quattro astemi che sono magari si sono incazzati sicuramente e hanno portato in tribunale. No, io non ho accettato di conciliare, perché non ho niente di conciliare cosa? Infatti non è niente di cui non ti devi rimproverare nulla. Ma porterò delle prove cinematografiche. Ma è assurdo il mio giudizio per quello. Comunque qualche volta hai detto, Oliviero, qualche volta hai detto era solo una battuta, hai scritto. Ma no, ma è logico che è una battuta. Però non ti sei mai scusato, è vero? Crociani, sei qua che rompi le palle. Con te cosa bisogna fare? No, sono queste battute qua. Ho capito, però quando uno dice una battuta è perché vuole esprimere poi alla fine qualcosa di vero in fondo. Dicendo una battuta, uno in qualche modo dice una mezza verità. Dai. No, ma non ti ricordi come ero iniziato? Avevo detto che cominciavo a odiare il mio accento lombardo da quando sentivo parlare Salvini. Sì, perché l'accento porta un certo grugnito di Salvini. Sì. Allora, e tu mi dici, ma cosa vuol dire l'accento? Cosa vuol dire? Ma guarda i Veneti, per esempio, mi è venuto mente i Veneti perché così. Guardi bene, ti hanno invece un accento morbido, soave, un po' di bambagia. Sono benedetto, come stato, andiamo a bere un'ombretta. Cioè, c'è veramente attavica, anche allo stesso Parenzo ce l'ha, dai, ascoltalo bene. Cioè, sembrano tutti ubriaconi. Ogni tanto vado a Biscarra e ce l'ho, e lo do anche a me, certo. Questo calma così del parlare, che devo, facemo. Cioè fa schifo. Cioè un po' fa schifo, allora, dice strascica un po'. Se no gli piace. No, no, è un po' da alcolizzati, insomma. Un po' accento da alcolizzati, benissimo. Che, no, per carità, accentuiamo. Non li faresti guidare l'automobile, insomma. Ai veneti non bisogna fare. Beh, non c'è dubbio. Io da veneto non mi sento offeso, però. Oliviero, presto. Ti abbraccio, ciao ragazzi, ti abbraccio. Bravi, ciao, mi raccomando. Siamo ciao, sempre, io sono, stasera sono con te su diverse cose, non su Salvini, ma su diverse cose. Ma questo non è che mi fa tanto piacere. Distruggiamo questa religione, distruggiamo. Quando la gente ti dice la penso come te, è un insulto. Vabbè, adesso non esageriamo, dai, qualche volta si può essere anche d'accordo. No, ma se Cruciani dice la penso come te, è un disastro. Andiamo in galera tutte e due. Ciao, ciao. Ciao, Cruciani. Ciao, ciao. Ciao. Ciao ragazzi, continuate a litigare, continuate. La Zanzara. Ormai è tutto degradato ormai. Oh, facciamo un bel Zanzarology, antologia della Zanzara. Zanzarology, antologia della zanzara. Siccome ascoltavamo Toscani sui veneti, tra l'altro ha rincarato la dose, se non ve ne siete accorti. Beh, ve lo dico io, ha rincarato la dose e andrà a processo. Noi seguiremo tutto questo processo in diretta live. No, adesso non esageriamo, in diretta live, insomma, diretta, riprendendo le sedute, eccetera. Cioè, no, alle 20:15. No, no, no. Beh, no, magari sì, che ne sai, magari alle 18:30. Comunque, vabbè, seguiremo questo processo. Direi Toscani sui veneti ubriaconi. Senti, quando parla il sindaco di di Padova, guarda, no, ne avete, no, voi di fonici, quel dialetto meraviglioso che è il dialetto di Padova, anch'io ho difficoltà praticamente da ubriachi, un accento da alcolizzati, questo, no, dai, su, no, si può dire, cioè tu dici, no, l'accento veneto è da ubriachi, sì, da ombretta tutto il tempo, l'ombra, bevono le ombre, no, cioè, un popolo, tu dici è un popolo di ubriaconi alla fine, alcolizzati atavicamente, non loro personalmente, ma nonni, padri, madri, cioè, no, cronici, alcolizzati, cronici, dai. Guarda Parenzo, non è un po'... Ma scusa, ma tu veramente, Oliviero, no, vuoi farti emanare una fatua dal Veneto? Cioè, vuoi che ti impediscono di entrare in Veneto? Ce ne dici di tutti i colori sui veneti, cioè. Ma no, poveretti. Beh, no, poveretti, insomma, dai. L'unica colpa loro se uno nasce là, no? Allora, andiamo a Perugia, Luciano, vai. C'è o non c'è Luciano? Luciano, vai. Pronto. Dimmi. Uno, mi avete fatto freddare l'arrosto morto, quindi è un disastro. L'arrosto? Punto, beh, amico morto, mio, facciamo, no, l'elogio dell'arrosto stasera, però. Facciamo l'elogio dell'arrosto contro i vegani, i vegetariani, queste robe qua, per carità. Ma ognuno ha diritto di essere quello che vuole, però comunque noi ci piace l'arrosto, diglielo un po'. Ah, a noi molto piace. A me molto, mi piace molto l'arrosto. Bravo. Tutto questo con le patate anche. Cosa. Con le patate. Certo. Amico mio, sei delle mie parti, tu sei delle mie parti. Monsignor Paglia, sì, è l'ex vescovo di Terni, come no, che certo i ternani chiamerebbero Monsignor Piglia. In che senso? No, no, è stato, adesso non confondiamo le cose, è stato coinvolto in una vicenda giudiziaria, da cui però è uscito indenne Monsignor Paglia. Adesso cosa c'entra adesso? No, amico mio, le devi sapere le cose, però. È stato, è rimasto... Non vorrei andare in galera insieme con Toscani, insomma, volevo dire. Appunto. No, no, appunto, non c'entra niente, è uscito fuori da quell'inchiesta. Ma poi, è lo stesso, perché era detto Monsignor Piglia. Però Piglia, è uscito, dici, fuori. Chiedetelo ai ternani, io frequentavo Terni così per caso, e dicevano Monsignor Piglia, che ne so, può darsi che mi sbaglio, No, vabbè, adesso non lo so, può darsi pure che l'ha detto così dai ternani, eccetera eccetera. Comunque, ragazzi, l'inchiesta, mi sembra di aver capito recentemente che è uscito fuori da un'inchiesta in cui era coinvolto Luciano, sì. Fermo lì, grazie. Una cosa controtendenza, viva il traffico, perché c'ha una voce sexy. La Zanzara. Tra GR, borsa e pubblicità, qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata. Paolo da Cosenza, vai Paolo, vai. Pronto? Dimmi. Ciao, senti, ti volevo dire soltanto una cosa riguardo alle storie di forum. Sì. Vabbè, lo sanno tutti che quelle non sono storie vere, nel senso che probabilmente sono, si riferisce a casi che magari sono successi oppure dovrebbero succedere, e poi quelli sono attori, perché non puoi pensare che uno vada lì a spiattellare un po' e un po', alcune saranno vere, altre no, di essere stato tradito da, io guarda, ho perso la nozione del senso della realtà, non mi ricordo se quelli che stanno lì sono attori che recitano una parte, certo, sono attori, ma non so se tutti sono attori, ma sono storie verosimili molte, la maggior parte non ho capito come ovviamente funziona veramente, perché non lo so, me lo sono dimenticato. No, allora funziona così, che loro ricostruiscono in studio dei casi che o si riferiscono a storie, no, ma ho capito, ma non ci sono i veri protagonisti, non me lo ricordo. No, assolutamente no. Ah. No, almeno io non ci andrei a spostarmi. Ah, tu non ci andresti, non è che lo sai. Ma non ci andrebbe nessuno. Ma dai, non è vero, ma guarda che c'è un sacco di gente che vuole mettere in piazza le proprie cose, compreso il sottoscritto, ma io lo faccio. Livelli, capito? Ma non come a questi livelli, no. Cornuto d'Italia o... Sì, ci sono persone così. Ci sono persone che vanno lì al mondo di narcisisti, di gente così. No, comunque l'hanno detto loro che sono attori quelli lì, sono bravi in ogni caso, sono bravi magari, perché però l'hanno detto proprio loro in una trasmissione. Ma qualcuno mi dice, lo sanno c'è... anche i muri, non mi ricordo più, francamente non seguo più queste cose da un sacco di tempo. Puoi fartelo dire. Ma sì, ma no, ma la Palombelli sicuramente me lo dirà, sono tutti attori, ma non me lo ricordo bene, ma chi se ne frega poi. Ciao, grazie Paolo. Simone, Roma, vai, comunque le storie sono vere, Simone. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dimmi. Volevo intervenire riguardo al sindaco Marino alla vicenda del viaggio in cui si è imbucato. Vai. Semplicemente. Mi sembra ormai ufficiale che si è imbucato, scusa. Sì, no, ritengono ufficiale che si sia imbucato. No, innanzitutto il problema non è se si è imbucato oppure no, ma il problema è chi ha pagato, perché anche su quello ci sono diverse fonti, diverse verità, ma questo non si sa quale sia quello attendibile. Questo è il problema, capire questo. Anche il sindaco di Filadelfia ha assolutamente smentito di aver pagato lui il viaggio. Altra cosa che io ritengo insomma simpatica è capire perché chi difende il sindaco Marino non è mai della città di Roma. Anche prima è intervenuto un ascoltatore di Milano in difesa del sindaco Marino. Ma no, adesso ma ragazzi, c'è però un romano, scusa, che difende il sindaco Marino. Da questo punto di vista, però, c'è una grande ipocrisia. Io ricordo a tutti quelli che ci stanno ascoltando, forse compreso lei, non lo so, che non più di due anni fa, non più tardi di due anni fa, cioè stiamo parlando della primavera, poco più di due anni fa, del 2013. Un certo numero di romani, certo non la maggioranza, se poi uno considera quelli che non sono andati a votare, ma insomma, lascia perdere, le storie sono, le chiacchiere stanno a zero, quando uno viene a letto, un certo numero di romani è andato a mettere la sua X sul nome, appunto, Marino, per cui non... Sulla fiducia. Sì, sulla ma fiducia. Non, sì, ok, sulla fiducia, però non è che su tutti quelli... No, ma siccome tu stai dicendo, che nessuno a Roma difende Marino, ma non lo so se è così. Io dico semplicemente che poi le cose sono molto, no, sono molto cambiano velocemente in politica. C'è un certo numero di romani che ha votato un signore che non è nemmeno romano, sindaco di Roma. Per cui. Così è, certo, poi le cose come tu dici adesso ha deluso forse. Beh, anche Alemanno non era romano propriamente. Vabbè, Alemanno però è insediato a Roma, cresciuto, no? A Roma, sì, di origine. Sì, siamo pugliese. D'accordo, però no, diverso, questo discorso dai, qui può valere fino a un certo punto, perché anche Cofferati non era bolognese, eppure è stato sindaco di Bologna, ormai questa cosa qui non è che... Beh, insomma, dire... però un po' di insediamento nella città ci vuole, secondo me. Comunque, Andrea da Rieti, dai, Andrea, secondo me un minimo di insediamento, di conoscenza un minimo della città. Ma, ecco, conoscenza ci vuole. È un conto, insediamento. Ma la conoscenza anche dal punto di vista, come dire, dei quartieri, dei problemi. Magari lo conosce, non è che... Beh, no, ma che conosce, dai. Andrea Rieti, dai. Andrea. Ciao, Cruciani. Dai, dimmi, Andrea. Io ti amo, Non esagerare, amico anche mio. Anche se stasera... no, anche se stasera mi girano un po' le scatole che... Perché? Sono più di un'ora che aspetto. E lo sai, ragione, dimmi tutto. Vabbè, comunque, senti, mi volevo riallacciare al discorso di Parenzo di ieri sera. Che diceva che il 90% delle zoccole sono sfruttate. 99 direi, quelle no, da strada. No, direi, no, aumenterei la percentuale. Tu ti sbagli, guarda che secondo me sono sfruttate molto più le altre che non quelle di strada. Ti sbagli, perché quelle di strada sono visibili, le altre non si vedono. Dunque lo sfruttamento secondo me non è tanto per strada, è anche in altre, da altre, in altre realtà. Lucia, aspetta un attimo, fammi finire. Allora, Parenzo forse si riferisce a quelle che stanno sulla strada. Sì, sì, soprattutto a quelle, quelle certo. Che stanno su, che quelle che stanno sulla strada sì. Sono una parte minima, perché la maggior parte delle zoccole stanno in appartamenti. Va bene, infatti, sì, anche, certo. Sa, certo. Sì, sì, sì, va bene. Non cambia la sostanza delle cose, però. Vabbè, adesso quello è così, no, quell'altro è così. Ma tu vai a puttane, Andrea. Andrea, tu vai a puttane. Eh? Tu vai a puttane. Certo che ci vado. Certo. Ma allora non trovi giustificazioni di alcun tipo. Dove vai? Cioè, aspetta, fammi sentire la storia. No, ma il fatto che è complice di un'economia criminale. Ma vada, quale complice? Vada, ma senza fare. Non hai capito. Non hai capito. Come si chiama? Ma no. Si chiama economia criminale. Come si chiama? Io vado in appartamento. Sì, ma come le chiami? Come le chiami ste puttane? Io le chiamo tramite internet. Oppure tramite giornale. Tramite internet o giornale? Cioè tu le trovi su internet e sul giornale? Sì, sul giornale, certo. Sul giornale, cioè vai lì e scegli. Vabbè. Quante volte a settimana vai? Ma una volta a settimana ci vado. Una volta a Rieti? Una volta a settimana ci vado. A Rieti oppure nei dintorni? Sì, a Rieti, a Roma. Sei sposato? Sì, certo, sono sposato, ho due figli. Due figli, tua moglie che dice? Però a me era... Però a me mi piace andare a zoccolo, che te devo dire? Ma scusa, tua moglie che dice? Non lo sa. Amico mio, però la radio e non ascolta la zanzara, però. Probabilmente non ascolta la zanzara. Altrimenti stasera torni a casa e ti trova con il bastone nodoso. Vabbè, fermo lì che hai un sacco. Ma aspetta, come no? E ti devo far finire, però qui abbiamo la borsa. Un attimo, fermo lì, Andrea, non ti preoccupare, ci racconti tutta la tua storia di, come dire, di traditore, direi seriale, Parenzo, si potrebbe dire a questo punto. Di traditore seriale, va a puttana una volta a settimana. La moglie, secondo me, non te la passerai bene. Voglio più zanzara e meno pubblicità. Invesco. Per i tuoi risparmi. Investi con noi. Vi presenta La Zanzara. It was a beautiful day. Sun beat down. Allora ragazzi, 800 24 00 24, Enrico Mentana, direttore della 7, del telegiornale della 7, ha commentato così, poi però qualcosa da dire, la vicenda Marino, cioè la vicenda Renzi Paglia. Però il fatto è che in serata è arrivato un altro elemento, ottenuto in un modo non deontologicamente perfetto, ma questa è una polemica che c'è stata tante volte. Cosa è successo? La trasmissione radiofonica La Zanzara di Radio 24, con un imitatore di Renzi, uno che si spacciava per Renzi, ha raggiunto telefonicamente Monsignor Paglia. Come spero stiamo per sentire, il vero Monsignor Paglia dice al finto Renzi qualcosa di molto impegnativo. Tra l'altro, spiegando perché il Papa ha detto così, il Papa, letteralmente, forse lo stiamo per sentire, era imbufalito. Sentiamo. Simone. Allora, eravamo però con un racconto fondamentale, Parezzo, perché allora Mentana, dico subito, è un amico, per carità, è una persona che apprezzo moltissimo, quello che vuoi, però dovrebbe guardare anche un po' in casa sua, cioè la 7, dove vengono mandati, a parte che se tu dici che deontologicamente eccetera eccetera, poi non è che mandi l'audio, però comunque, allora se decidi che è così, non mandare l'audio prima. Ma è comunque una notizia. Sì, vabbè, ma non lascia perdere, non c'è bisogno dei commenti, perché sei in conflitto di interessi. Ma il conflitto di interessi? Commento come commento. No, ma per secondo dire, me ha ragione. Cosa ha ragione? Cioè è vero che c'è stata una polemica dal punto di vista deontologico, se c'è una polemica e se una cosa, però tu la consideri, è una notizia, quindi la mandi. Se tu la consideri, come dire, no, però è una notizia, la mandi, quello che sì, c'è, ma come non è proprio così come dici. Beh, tu, ma non sì, mi va di restare su questo. La seconda cosa è che la stessa cosa non si usa per altre vicende, tipo le telecamere nascoste eccetera eccetera, che vengono usate a profusione anche nelle trasmissioni della stessa La 7, punto e basta. Dico solo questo e basta, per cui uno deve guardare anche un po' in casa sua, non è che deve guardare solo in casa degli altri e fare così, no? Fare la battutina sulla deontologia professionale, che non ce ne frega assolutamente nulla, no? Della deontologia professionale, della battutina. Ma andiamo con Andrea D'Arieti, che ci stava raccontando qualcosa di fondamentale. Sei sicuro che tua moglie non è all'ascolto, Andrea? No, a quest'ora sta cucinando, quindi... Ma ho capito, ma tu sei alla radio e parli di mignotte, che vai a mignotte una volta a settimana, amico mio. Ma io sto al telefono, mica c'ho la radio accesa. Allora? Però poi tornerai a casa, no? No, con quella faccia... Una cosa. Sì. Io gli volevo dire una cosa a Parenzo. Dimmi, che praticamente dimmi. Una volta sono stato. Ma tu quando vai usi il preservativo o no? Certo. Ma è che ne so, io mai, ci stanno tanti matti, amico mio. No, io lo uso, poi non pensiamo. E niente, una volta. Ma con che vai? Pure con i trans, vai? No, con i trans no. Non l'ho provati mai. Qualche amico mio l'ha provati. Che dice qualche amico? Mi hanno detto che lavorano bene. Cioè? Di che? Come in che senso? Cioè, capisci a me, mo che te devo dire. Che ne so, che vuol dire? Io non ci sono mai stato, che vuol dire lavorano bene? Lavorano bene. Lavorano bene. Vabbè, ho capito, vuol dire. È meglio delle donne. Questa amico mi ha detto che meglio delle donne. Ma non si può dire questo qua, qualcuno sì, qualcuno no. Io infatti ma, non te lo volevo dire, ma anche lì ci sarà varietà, no? Ci sarà una certa varietà. Quei trans che c'è stato mi ha detto che è meglio delle donne. Vabbè, vediamo, anche lì dei gusti, busto, no? Che volevi dire a Parenzo? Sì, che ovviamente si è silenziato. No, no, ascolta quello che mi dice. Io sono stato con una moldava su un appartamento. Sì. E praticamente questa qua lavorava in un'azienda agricola. Sì. E mi ha detto che si è licenziata per disperazione, perché non ce la faceva più. E quindi si era messa a fare la mignotta. Capito? Non è che giustifica per la bacchetta. Quindi lei sarebbe un benefattore. Si spaccava la schiena. No, quindi lei in questo caso sarebbe un benefattore, perché aiuta questa signorina a guadagnarsi il pane. Questo no, dicendo. No, non ha detto che è un benefattore. Vabbè, non interessa giudicare se lei è un benefattore. Ha detto semplicemente che si è licenziata, no, da lì o l'hanno mandata come via. Come benefattore, siccome ci vado, allora la aiuto e quindi io sostanzialmente sono un benefattore. Io questo me dice. A me non mi frega niente. Appunto, allora perché non la compra? Visto che non gliene frega nulla. Sta dicendo che non è sfruttata, ha trovato nella, ha detto la verità, ha trovato nella prostituzione un modo di guadagnare e punto e basta. Magari di 20 volte di più? Non si spaccava la schiena. Va bene, se l'ha scelto volontariamente, diciamo, siamo tutti d'accordo. Si spaccava altre cose, diciamo, però comunque. Certo. Vabbè, comunque. Spaccava la schiena. Andrea, ciao. Allora, Renzi, perché ho detto Renzi? C'ho in testa. Renzi Parenzo. Oggi stasera c'ho in testa Renzi. Parenzo, ovviamente adesso questa roba ha a che fare col potere, Roma, Marino, il Papa, Monsignor Paglia, il Vaticano, però poi alla fine non è una di quelle cose per cui gli italiani, no, non è il portafoglio degli italiani, non cambia, non è il portafoglio degli italiani. Sì, è importante, per carità, perché insomma potrebbe decidere anche delle sorti del sindaco di Roma, no? Vabbè, certo. Che è comunque un potere, è più di un ministro, fare il sindaco di Roma è più di un ministro dal punto di vista del allora, potere. Allora, ti dico subito una cosa, cosa succede in questa vergogna che è la burocrazia italiana? Dei signori si sono presi la briga di andare in un campo, in una vigna in Piemonte, e fare una multa a uno che coltiva i campi, raccoglieva l'uva insieme a degli amici, semplicemente per del lavoro nero, perché questi qua non erano messi in regola. Poveri. Erano degli amici che erano andati ad aiutare. E quanto deve pagare questo qua? Ma credo intorno ai 15.000-16.000 euro, una cosa di questo tipo. Io vorrei chiamarlo questo signore, che si chiama Battista Battaglino ed ha 63 anni, insieme alla moglie. Speriamo a quest'ora di beccarli insieme. Penso di sì, che sono 20:43 quello che è. Pronto? Sì, mi dica. Battaglino, buonasera, qui Radio 24, salve. Sì, salve. Come va? Male. La sento giù. Insomma, non lo so fino a domani, è un po' tutto, diciamo, incerto. Ma la multa quant'è in tutto, scusami? No, ma lei c'è stata una maggiorazione, ma sarebbe 3.900 euro a persona fuori regola. Sono 4 persone coinvolte. Dunque 4.000, 4 per 4, 16? C'era qualcosa di meno. Scusi, lei ci racconti un po', ha invitato questi amici, no? Avevo necessità, come ho ripetuto altre volte, di preparare 200 cassette d'uva per fare la consegna di fine settimana, sì. E ho chiamato a parenti e amici. Tra le decine persone che ho contattato, 4 erano disponibili e ci siamo incamminati a lavorare giovedì mattina. È tutto lì. Dunque questi qua che cosa avrebbero avuto in cambio? Niente, una magnata, un po' di uva? Sì, ma non più di questo. Cioè, ma lei adesso questi soldi per pagare la multa, se la multa dovesse essere confermata, perché lei immagino non che farà ricorso, ce li ha o non ce li ha? No, non li ho assolutamente. Ma lì poi ma poi neanche non li voglio pagare, cioè, la trovo una cosa veramente assurda. Per me non dovevano neanche incominciare a scrivere, vedendo la situazione davanti ai loro occhi. Sì. Solo che scusi, Battista, lei quanti anni ha? Io sono 63, sono pensionato da 5. E che fa adesso? Ho detto, ribadisco, che sconto i soldi che devo allo Stato in prigione, ma lo confermo. Cioè, sono disposto ad andare in prigione? Sì, sì, no, ma assolutamente, facciano quel che vogliono. Scusi, la signora Ada, che era tra le persone là, che era la sua compagna, sì, è incazzata nera, me la passa un attimo? Beh, insomma, delusa, come sarà? Chiedo un po' se c'è. Signora Ada, è la compagna di Battista. Compagna, la compagna. Non si può dire compagna. No, è la compagna, no? È la campagna. La campagna, non la compagna, la campagna. Pronto? Oh, buonasera, signora Ada. Buonasera. Come andiamo? Qui Radio 24, salve. Salve. Sono Cruciani e Parenzo con me. Dalla sua parte questa volta. Beh, diciamo dalla sua parte, a meno che non io in genere con i padroni sai che ho un po' di. No, perché Parenzo ha il sospetto che voi avete fatto un po' i furbetti. No, qui in questo caso caso non sta credo. Parlando di noi. Ma assolutamente no, niente furbi. Ma lei un po' ride, ma non è abbattuta, c'è un cazzo no? Da ridere, mi pare, però c'è da pagare lì. No, qui c'è da pagare, sì. Beh. Ho paura, non lo so, adesso domani vediamo. Ma lei è incazzata nera? Ma io sono io sono molto dispiaciuta perché sono venuta ad aiutare una persona e gli ho creato un danno, per cui mi sento anche in colpa, sinceramente. Beh, è venuta a aiutare, non è la sua compagna lei? Sì, d'accordo, però non viviamo assieme, io abito in Valsusa e lui abita nelle Langhe. Che è il modo giusto per stare insieme in realtà, separati. Appunto, vite separate. Sì, separate. Letti separati. Anche interessi. Come? Letti separati sempre? Beh, non sempre. Beh, sì, non sempre, cioè, certo, questo non sempre. Non c'entra con la vigna. No, questo effettivamente non c'entra, sì, come con al solito. La vigna, non credo. No, con la vigna non c'entra niente. Lei ha intenzione di pagare, perché il signor Battista dice che non paga, lei che dice? No, lui non paga, ma no, io sono più povera di lui, per cui non può dare manco una mano, no? Neanche una mano. Cioè, in più lei ha provocato il danno e in più manco c'ha un euro. Ah, signora Ada, amica mia. No, purtroppo è così, guardi, io sono pensionata, pensi un po' come vivono i pensionati. Oggi. Lo so, comunque questo Stato è veramente una vergogna, questo Stato burocratico direi, no, non lo dico per scherzo, lo dico sul serio questa volta, è un po'... ma io le do pienamente ragione. Cioè la burocrazia è una vergogna, cioè i signori arrivano lì e si accertano che la signora è la compagna, che gli altri sono amici, che non è lavoro nero e non compilano i moduli, non fanno le multe, perché altrimenti poi come se ne esce? Ovviamente quando c'è una multa... Se ne esce, il problema è questo, che ho paura che non se ne esce. Ma no, se ne uscirà signora, se ne uscirà, perché questa multa non deve passare. Vabbè, grazie, a presto, arrivederci, buona serata. Buona serata dalle vigne della grazie, Piemonte. Grazie. Arrivederci. Buon pagamento. Ma perché buon pagamento? Non devono pagare. Beniamino da Taranto, 800 24 00 24. Hai visto a che punto arriva la burocrazia in Italia? Pazzesco. Cioè, quelli vanno in un campo per raccogliere l'uva, in una vigna, e fanno una multa a un povero Cristo che non c'ha da perché pagare. Perché è vero che il lavoro nero in quei campi, nei campi, carità, spesso c'è. Il lavoro nero deve essere combattuto, per carità. Sono tutte le follie di questa cosa, per cui quelli erano amici, stanno quello, no, ma infatti io in questo caso accertati di una cosa invece di fare il modulo, no? Di metterti lì a fare la multina, dai. Beniamino da Taranto, vai. Ciao, buonasera. Dimmi. Volevo dire qualcosa sul Papa e il fatto di Marino. Sì. Questo Papa forse viene interpretato come un bonaccione, un fessacchiotto. Questo sta tirando le orecchie ai grandi della terra. Mm. E non ci ha messo niente a sputtanare pure Marino, che si professa cattolico e poi contro la Costituzione sposa gli omosessuali. Ma contro la Costituzione. Bene. Contro la Costituzione. Va bene. No, più che altro tu riveli una cosa, sì. Cioè il fastidio del Vaticano, forse anche del Papa, non lo sappiamo, sulla vicenda della celebrazione dei matrimoni gay, dei finti matrimoni gay di Marino in Campidoglio. Direi di sì, è contro la dottrina cattolica, quindi. Sì, vabbè, quello lo sappiamo, bene, che è contro la dottrina. Ha fatto bene a fare che? ha fatto bene a mostrare fastidio per la presenza di questa persona che si è inserita senza nessun invito in queste occasioni ufficiali. Se ci si presenta in veste ufficiali, sapete meglio di sicuramente che ci vuole un invito. Vabbè, no? Beniamino, istituzione. Sì, ma no, infatti lui si è imbucato, l'ha detto chiaramente anche Monsignor Paglia. Stefano da Bari, vai Stefano. Buonasera a tutti. Allora, dimmi. Luciani, io tempo fa ti ho lasciato il beneficio dell'ignoranza quando ti ho parlato del gravissimo problema della prostituzione. Ancora? Sì, ancora, ma mi sa che non ci arrivi. Allora, molto semplice il discorso. Visto che sono stato un'ora ad aspettare al telefono, adesso ti dico due minuti e poi allora, ascoltami. Chi va a puttane, altro che multa, dovrebbe essere arrestato. Vabbè, amico mio, se tu pensi che vada arrestato, per carità, vai tranquillo. Aspetta. Chi va a puttane è complice, come il magnaccio, di quel sistema becero che è lo sfruttamento, la tratta e la schiavitù, appunto. Quindi, se per assurdo io mi auguro un domani si arriverà che nessuno va a puttane, quello siccome, come dice giustamente Parenzo, anche se lo vedo un po' timido, non esisterà, non cosa, esiste, no, questa possibilità. No, ma io l'ho detto mille volte la mia posizione, sono per mandare a casa le multe ai clienti. Sono perché considerare complici dello sfruttamento chi va con le prostitute. Stefano, l'ho detto mille volte. Stefano, arrestato, Luciani, sei un pazzo. Questo è un mercato. Se nel momento in cui manca la domanda, ma non può, ma è come tu dire una puttana, così. Ora tu hai un grande potere con Parenzo, la radio, allora? Che è un grandissimo mezzo di comunicazione. Tu davvero puoi sensibilizzare una parola che tanto io non voglio sensibilizzare culo, nessuno, per me è giusto andare a puttane, figuriamoci, cioè non voglio sensibilizzare nessuno. È giusto andare a puttane, è cosa buona e giusta, è un mercato che ci deve essere che e che esisterà sempre, donne, esisterà Crucia, sempre. Ma non significa niente, esisterà sempre pure il razzismo, non significa che è una cosa buona. Ma non c'entra niente. Niente, dai, giusto, su, non, cioè, non fate assolutamente paragoni assurdi tra la prostituzione e il razzismo, dai. La violenza sulle donne, non è solo menare. Vabbè, ragazzi, una se pensate che possa esistere un mondo utopico in cui è come quelli che pensavano che non ci poteva essere più il capitalismo, erano tutti uguali. Se potete, se vi immaginate, se sognate un mondo, lasciate questo argomento che non c'entra. Se sognate un mondo senza prostituzione. Chi lo sogna? Va nessuno. Bene, benissimo, per carità. Arrestiamo tutti, Stefano. Arrestiamo quelli che vanno a puttane. Arrestiamo. E secondo me sei uno dei primi che sarebbe arrestato. Cioè, sei uno dei primi che con i ceppi così, con le manette, secondo me. Perché sotto sotto. Ci sentiamo domani, 18:30. Ciao. Chi va contro le leggi di Dio va all'inferno dritto dritto. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Sia lodato Gesù Cristo, sempre. Radio 24, la passione si sente.